il pullover che m'hai dato tu. Sai, mia cara, possiede una virtù, ha il calore che tu davi a me, e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover accarezzo sé, verso sera ho nostalgia di te, ha il profumo che portavi tu, chiudo gli occhi e non ti lascio più. Sai, mia cara, sono tanto solo, nell'inverno con lo suo gelo mi rimane quest'ultimo tuo dono, un ultimo abbraccio d'amor, d'amor. Il pullover che m'hai dato tu, sai, mia cara, possiede una virtù, ha il calore che tu davi a me, e mi illudo di stare in braccio a te. Sai, mia cara, sono tanto solo, nell'inverno col suo gelo mi rimane quest'ultimo tuo dono, un ultimo abbraccio d'amor, d'amor. Il pullover che m'hai dato tu, sai, mia cara, possiede una virtù, ha il calore che tu davi a me, e mi illudo di stare in braccio a te, e mi illudo di stare in braccio a te, e mi illudo di stare in braccio a te. Il pullover che m'hai dato tu.